Pablo Picasso, raccontato da Marco Carminati. Pablo Picasso si è formato come un artista tradizionale. La sua formazione iniziale fu quella di un pittore accademico. Era bravissimo nel realizzare dipinti molto vicini alla natura, scene come la prima comunione. Nessuno immagina l'evoluzione incredibile di questo giovane. Ma questo giovane, approdato a Parigi all'inizio del Novecento, ha un trauma. Incontra la morte. Un suo amico muore improvvisamente. Il giovane ne è sconvolto e nascono una serie di quadri che sono la prima grande svolta moderna di Picasso, perché Picasso capisce che la vita è terribilmente dura, è piena di angosce, la vita umana è fatta di fatica, di sofferenza, di morte, e cerca di esprimerlo come lo fa attraverso la pittura che noi chiamiamo oggi il periodo blu, cioè rende livida l'immagine, fa una serie di ritratti di personaggi pensosi e in difficoltà. Uno di questi ritratti è uno dei pezzi importanti della storia della pittura, la Cosiddetta Celestina. È un quadro che si trova nel Museo Picasso di Parigi ed è in realtà il ritratto di una mezzana di una certa età, vestita come una vedova su questo fondo blu caratteristico. Non ci guarda negli occhi, lo sguardo è sfuggente, è una donna che ha vissuto molto e che sicuramente ha patito molto, e tra l'altro il suo sguardo è segnato dalla malattia, un glaucoma nell'occhio che rende appunto l'occhio vitreo e senza sostanza. Quindi Picasso riesce in questo periodo iniziale della sua grande carriera di artista a esprimere per la prima volta nell'arte in modo così intenso il sentimento del male di vivere e del dolore. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.